Così ha detto il Signore: per 3 prevaricazioni di Moab e per 4 non la farò tornare, per aver egli incendiato e ridotto in calcina le ossa del re di Edom. Manderò fuoco in Moab e divorerà i palazzi di Keriot. Morrà con fragore Moab, con clangore, con squillo di tromba. Sterminerò il giudice di dentro ad esse, e tutti i suoi principi truciderò con lui, ha detto il Signore. Così ha detto il Signore: per 3 prevaricazioni di Giuda e per 4 non la farò tornare, per aver essi respinto la legge del Signore e non osservato i suoi decreti. Li hanno traviati le loro menzogne cui i padri loro andarono dietro. Manderò fuoco in Giuda e divorerà i palazzi di Gerusalemme. Così ha detto il Signore: per 3 prevaricazioni di Israele e per 4 non la farò tornare, per aver essi venduto per argento chi è giusto e chi è povero a conto di 2 sandali. Essi che calpestano tra la polvere della terra la testa dei miseri e la via degli umili precludono. E un uomo e il padre suo entrano ad una stessa fanciulla allo scopo di profanare il nome mio santo. Su vestiti ignorate si stendono accanto ad ogni altare e vino di multati sbevazzano nella casa del loro Dio. Eppure proprio io estirpai l'amorreo davanti a loro, la cui altezza era come altezza di cedri ed era forte come le querce. Estirpai il suo frutto dal di sopra e le sue radici dal di sotto. E proprio io vi feci salire dalla terra d'Egitto e vi condussi nel deserto per 40 anni perché ereditaste la terra dell'amorreo. Suscitai profeti tra i vostri figli e nazirei tra i vostri adolescenti. Non è forse così, figli di Israele? Oracolo del Signore. Abbeveraste i nazirei con vino e ai profeti comandaste: non profetate. Ecco, io sto per stridere sotto di voi come stride il carro quando è stracarico di covoni. Allora svanirà la fuga per il leggero e il gagliardo non sarà sostenuto dal suo valore. L'eroe non scamperà l'anima sua e il virtuoso dell'arco non starà saldo. Il leggero di piedi non scamperà e il cavaliere non scamperà l'anima sua. Il più robusto di cuore tra gli eroi nudo fuggirà in quel giorno. Oracolo del Signore.